Eccoci su Megafonix oggi martedì 16 novembre 2013. Che te ne pare? Ti piace qui? Perché? Ci trasferiamo di nuovo? No. Aveva cambiato aspetto. Stai bene? Oh, già. Ma niente poteva proteggerla. Dall'uomo più pericoloso che avesse mai incontrato. Suo marito. Ti rivoglio con me. No. Sarà tutto come una volta. No! Non puoi fuggire per sempre. Perché no? Sono brava a fuggire. E le finestre del tuo appartamento saranno chiuse bene. Uno ci può impazzire pensando a cose del genere. Ciao, Grace. Grace! L'amore è una cosa che fa paura. È sconvolgente quello che può fare. La polizia non la può aiutare. Nessuno la può aiutare. Lui continuerà a tornare finché non l'ammazza. Tu hai il diritto divino e naturale di proteggere la tua vita e la vita dei tuoi piccoli. Sei pronta? Sì. E come fai a vincere? Attacco io. E che cosa farai dopo aver attaccato? Non smetto mai di attaccare. La legittima difesa non è omicidio. Hai paura? Di che cosa? Di me. E con questo trailer del film Via dell'Incubo, Enough, iniziamo la Megafonix di oggi. Via dell'Incubo, la storia terribilmente banale di una donna che amava un uomo perfetto, che sposa e il quale si rivela un violento prevaricatore. Ma qui si ferma la banalità della storia e entriamo in un'altra dinamica quando la donna decide di allenarsi e di vendicarsi. A qualche giorno della giornata contro le violenze degli uomini sulle donne abbiamo fatto delle vendette di donne il nostro argomento di oggi. Infatti, che ci importa se ci odiano, l'importante è che ci temano. In questo momento in cui non c'è niente da fare, uomini uccidono le donne al ritmo di una ogni due giorni, non c'è niente da fare, continua, non cambia, è sempre così. Quando dobbiamo tutti i martedì fermarci per non fare solo un GR fatto di violenza dei uomini contro le donne, molestie, stupri, omicidi, allora come si potrebbe fare quando non si può più non si può contare sulla giustizia, su un cambiamento di mentalità, sull'appoggi di tutti in modo che non può fallire per combattere il patriarcato, o il sistema sessista. Allora possiamo talvolta chiedersi se non sarebbe il momento di cambiare ruote. Et qui nous craint. Se sentite dire che si ripiangono, non credetelo. Non si ripiangono mai e comunque non cambierebbe assolutamente niente. Ma se mai lo dicessero se mai osassero dirlo, non credeteli. Sono dei salò che, per i quali la castrazione è la più dolce delle punizioni. Il momento è arrivato di spedire Timothy. È giunto il momento di mandarlo altronde nel cielo. Afferro il martello a due mani e lo brandi sopra la sua testa. Preparati a incontrare il tuo creatore, ma prima l'esecutore. Dopo questa orazione breve, queste piccole parole di circostanze, questa corta poesia che la sempre poetica, sempre creativa, bella, inventa ogni tanto, abbasso il martello, picchio con tutte le sue forze. Il martello si abbatte sul cranio, il corpo si contrasse, un gemito debole uscì da dentro le sue labbra. Una sostanza acquosa schizze le mani di Bella, rese il muro costellato di macchie nere come l'incrosto su carta assorbente. Picchiò di nuovo e fu come se spaccasse un uovo, come se urtasse il guscio, come se facesse colazione mattinaria al Brighton. Tirò fuori la sparacchiodi piantato nel cranio, si mordicchiava le labbra e si rimessi a martellarlo. Fece entrare il suo messaggio nel cranio nell'unico modo possibile, rendeli da parte di tutte le sue sorelle mute. Spezzò le ossa che proteggevano il cervello e stava sul punto di piangere mentre lui stava sul punto di morire. La sua mano teneva il martello e il martello abbatte, redusse la testa in poltiglia, la polverizzò. Polverizzò i pezzi che si trovavano dentro. Sentì un ultimo rantolo soffocato. Lui si smesse a tressaire. La vita di Timothée si smesse con un rumore violento e un sospiro. L'ultimo colpo smise fine per sempre a questo ciclo personale di mancanza. E questa è la storia di Bella che si svegli una mattina e si accorse che non ne poteva più. Così inizia il romanzo giallo di Helen Zahavi, Dirty Weekend, uno sporco weekend, che fu causa di uno shock tale che fu oggetto di una richiesta di vieto al Parlamento di Londra per immoralità, vero? Tra il venerdì e la domenica sera del weekend fatale, nella piccola città di Brighton, si succede con ritmi frenetici, violenze diverse e uccisioni piuttosto sporche. Un ritmo che fa apparire chiaramente, malgrado tutti i dettagli, che non siamo in una fizione, che siamo in una favola morale, con lo è il Candide di Voltaire, con questo sguardo acuto e l'umorismo sarcastico. Comunque, ogni donna, qual che sia la sua età o la situazione sociale, ha provato un giorno questa paura, questo pericolo, questa aggressione latente o esplosiva a quale le espone la sua condizione in un mondo di uomini, un mondo dove conta solo il rapporto di forza. E questo, una mattinata, la giovane e fragile Bella non lo sopporta più e si mette a rivorciare le regole del gioco. Qui n'aurait n'importe et qui nous craint. Qui n'aurait n'importe et qui nous craint. Si inchino, per verificare che il bavaglio teneva. Sto per ucciderti, Norman. Non te lo volevo dire, ma penso che hai il diritto di sapere. Stai per morire, Norman. Morirai fra poco, in questa camera, dalle mie mani. Conoscerai la morte che meriti. Sarà un brutto momento, per te e per me, ma si deve essere coraggioso. Il suo collo diventi rosso mentre provava desesperamente di rompere i legacci che le aveva chiesto di stringere fortemente. Ma soprattutto, non credere che ce ne ho contro di te personalmente. Non morirai perché sei come sei. Non morirai neanche perché mi disgusti. Se uccidessi tutti quelli che mi disgustano, non sarebbe più nessuno. Non ci sarebbe più nessuno. Quello che mi piacerebbe farti capire, Norman, prima di mandarti verso il tuo ultimo viaggio, è il fatto che morirai per mancanza di chance, per sfortuna. Non sei sfortunato perché le regole sono cambiate e nessuno ti ha avvertito. Peccato, povero Norman. Il problema con gli universitari è che sono troppo abituati alle loro cene intime nei bar dove condividono il conto in due prima di farsi fare una felazione gratuitamente. Dimenticano che nel mondo reale si deve pagare. Nel mondo reale, dove le donne provano a vendere l'unica merce che possedano, sempre si deve pagare. Niente ti designava per forza, Norman. Poteva essere un altro. Ma l'hai cercato, mi hai portato qui, mi hai fatto salire nella tua camera. Non avresti dovuto fare questo, Norman, non avresti dovuto lasciarmi passare davanti a te entrando nella camera. La tua madre avrebbe dovuto dirti di non mai prendere il rischio. Hai preso un rischio, Norman, hai preso un rischio e mi hai picchiata con la tua scarpa. Mi hai fatto soffrire, Norman, mi hai picchiata alla bocca e mi hai fatto soffrire. Non mi piace la sofferenza. Ho un soglio di tolleranza alla sofferenza molto basso. La sofferenza non è una cosa che cerco nella vita. Provo anche a evitarla. E adesso stai per pagare per la mia sofferenza. Pagherai per la sofferenza che mi hai causato e pagherai per la sofferenza che hai causato nella tua vita. Non piangere, Norman. Voglio che prendessi questo con filosofia. Tutti muoiono. Presto o tardi la morte ci porta via. Vai via solo un po' più presto. Le sue vene si gonfiano nel suo collo e sulle sue spalle. Si trovano un passaggio tra il grasso e i tendini per scoppiare alla superficie della pelle. Muscoli da molto tempo dimenticati si tesi in un ultimo e vano tentativo per liberarsi della cintura che lo teneva prigioniere. Sia coraggioso, Norman. Non ti sentirti abbandonato, non pensare a essere da sola, non sei il primo e non sarai l'ultimo. Fi cadere le ultime gocce nella busta di plastica e li messi sulla testa profondamente, prendendo cura di non strapparlo e di aprire tutti gli orifici. Poi vieni a piazzarsi davanti a lui. Alcune persone non si sentono minacciate se vi tenete dietro di loro. Hai già sentito parlare di preludio, disse. Questo si chiama epilogo. Sicuramente Norman aveva praticato il nuoto di giovane. Il nuoto aveva sviluppato i suoi polmoni. I suoi polmoni erano in realtà polmoni grossi che avevano bisogno di aspirare molta aria. Un minuto appena dopo, prima che la busta inizi a appannarsi. Il suo viso prese una tinta blu o forse porpora, difficile da dire attraverso la busta appannata. Che noi, n'importe, e che non crede, e questi sono due passaggi del libro di Zani. Dunque due passaggi dal libro di Zadi che si chiama Spock Weekend, Elena Zavi, nel 91 scrissi questo libro in cui Bella si sveglia e decide di vendicarsi dei uomini che la molestano. E il primo è il suo Trimotì, il suo vicino di casa che sta sempre a guardare dalla finestra e ogni tanto ci prova. Il secondo è un tipo che ha incontrato e che non avendo lui l'idea di avere una relazione tranquilla, comunque la forza a ucciderlo. E torneremo alla fizione, fine trasmissione, fizione che comunque si trovano un po' di temati, di donne che si difendono nei libri, nel cinema. Pensiamo al film Monster, o c'è anche questo film Che nessuna si muova. Ma non è solo un fatto. No, prima volevo dire una cosa, che traducendo la cosa di Bella, la cosa della Zadi, cioè mi sono accorta che ero molto molto toccata dalla violenza di questa donna, quasi quasi, cioè questa violenza scritta, amplificata, mi toccava molto di, cioè mi mi emozionava, mi sentivo quasi male, e quasi più male del tutte le atroce notizie che tutti i giorni arrivano da noi sulle violenze che gli uomini fanno alle donne. Mi sono veramente chiesto, ma anche io sono anche così o abituata al fatto che sì, è così la condizione delle donne in questa società, e dunque ne faccio anche un fatto banale, o quasi stupefatta quando anche le regole del gioco cambiano, e quando quando sono le donne a esercitare una vendetta, una violenza, è come se la cosa, cioè, è così eccezionale che l'emozione è un po' diversa. Questo non è per dire che nel fondo io sto per una vendetta sistematica, nel fondo del occhio per occhio non sarebbe il mio modo, ma comunque talvolta ci chiedono se comunque l'autodifesa o la rivolta o il cambiamento delle regole, nel senso che anche noi possiamo fare male, forse cambierebbe anche questa detta mentalità, questo che per noi sarebbe un sistema politico. Ma si trovano nell'attualità, nei fatti di stampa, si trovano comunque alcune reazioni delle donne. Per esempio, sabato 24 novembre 2012, verso le 21, una giovane donna di 17 anni torna tranquillamente a casa. Questo si trova nel sud della Francia. Quando lei è rapita da tre sconosciuti, questi ultimi l'hanno caricato nel cofano della macchina e gli hanno messo una busta sulla testa. Portata a più di 30 chilometri da questo luogo, l'adolescente è sequestrata in un palazzo e violentata sulla minaccia di un coltello. Ma l'adolescente è finalmente riuscita a scappare, approfittando di un momento di inattenzione dei suoi aggredatori, ha preso il coltello, ha coltellato uno di loro alla gola e è riuscita a fuggire dal balcone dell'appartamento. Andando dai vicini, ha dato l'allerta. Aprile 2008, una donna di 40 anni in Bangladesh ha tagliato il pene di un uomo che tentava di violentarla e l'ha portato come prova alla polizia. Questa giovane donna, che è sposata, madre di tre figli, è stata attaccata mentre lei dormiva a casa vicino a Dhaka. Allora, mentre lui tentava di stuprarla, la donna gli ha tagliato il pene con un coltello, poi l'ha messo in una pezzo di plastica e l'ha portato alla polizia come prova del crimine. Solidarität, das geht nicht. Unsere Stimme muss raus, es muss in die Lager. Nicht an die Politik, nicht an die Parteien, sondern auf die Straße, in die Lager. Elle s'est fait justice elle-même. Settembre 2012, si è fatto giustizia da sola in Turchia dopo mesi di incubo. Una donna di 26 anni ha ucciso e tagliato la testa del suo stupratore. Poi ha buttato la sua testa sulla piazza pubblica a Yalvak, in un paese all'ovest del paese. Questa madre di 2 anni era anche incinta del suo violentatore e racconta che una volta il suo marito partito per il lavoro, questo militare gli imponeva rapporti sessuali ogni settimana da mesi. Lei ha preso un fucile, l'ha sparato a più di una volta a livello delle parti genitali e poi gli ha tagliato la testa. Ho lavato il mio onore. La storia è quella di una giovane donna dal nome di Nevin, madre di famiglia di due bambini e vivendo a Isparta in Turchia anche, mi sa. Aspettate. Sì. E quando lo sposato Ah, questa è la stessa storia. Invece andiamo in Giappone, questo ottobre 2013, il mese scorso, che una giovane donna, adolescente di 19 anni, e stava facendo del jogging vicino al fiume quando è stato aggredito da un uomo cinquantenne, armato di un coltello. Lei è stata buttata a terra, è stata abbracciata e il violentatore ha iniziato a carezzarla. A questo momento, quando lui pose il coltello accanto, la vittima, che non è più una vittima a quel momento, l'ha preso e l'ha coltellato alla coccia e poi è andata subito a chiedere aiuto a qualcuno che passava. Ah, e poi 90 minuti più tardi lo stupratore muore all'ospedale. Una giovane donna, aprile 2012, al sud di Londra, una giovane donna ha coltellato a morte un quadragenne che l'aveva stuprato. Quello era stato arrestato, ma poi è stato lasciato quando hanno deciso che non c'erano abbastanza prove. La giovane donna ha deciso di fare giustizia da sola e l'ha coltellato a morte. In Brasil, vendetta mortale, mentre lei era appena stata aggredita, una donna si è messa a perseguire il suo aggreditore con la sua macchina. Infatti lui aveva iniziato la giornata rubando la borsa di una prima donna verso le 8:30, poi alle 10 si è attaccato a una seconda vittima che si rendeva al parrucchiere, ma lui ha provato a a fuggire in moto quando la tipa l'ha preso in gli è andato dietro e l'ha fatto cadere e ha trascinato il suo corpo su près di 30 metri. L'uomo è morto sul colpo. Presa da dietro da un giovane rubatore, una donna di 80 anni si è messo a correre, ha preso il suo aggreditore a calcio, l'ha morso, l'ha graffiato e l'uomo è sfuggito rinunciando a prendere la catena, la collana che portava la donna. La sera di sabato, Lisbeth Salander ritornò allora fissata all'appartamento di Nils Bjorman nei pressi di Odeplan. Lui la fece entrare con un affabile sorriso di benvenuto. «Allora, come andiamo oggi, cara Lisbeth?» gli disse salutandola. Lei non rispose. Lui le scinse le spalle con un braccio. «Forse la volta scorsa è stato un po' pesante», disse. «Avevi l'aria un tantino sbattuta». Lei gli rivolse un sorriso storto e lui gli avvertì una punta improvvisa di insicurezza. «A questa qui manca qualche rotella. Devo cercare di ricordarmene». Si chiese se si sarebbe adattata. «Andiamo in camera da letto?» domandò Lisbeth Salander. «D'altra parte, forse ha capito». e ci sta. La guido tenendole il braccio intorno alle spalle come la volta precedente. Oggi ci andrò cauto, bisogna costruire la fiducia. Le manette era già fuori sul cassettone, ma fu solo quando furono finalmente ai piedi del letto che l'avvocato Bjorman si rese conto che c'era qualcosa che non andava. Era stata lei a condirlo verso il letto, non il contrario. Si fermò e la sguardò sconcertato mentre lei estraeva nella tasca della giacca qualcosa che al primo momento gli parve un telefono cellulare. Poi vide i suoi occhi. Di buonanotte, fece lei. Gli caccio la pistola elettrica sotto l'ascella sinistra e sparo una scarica di 50.000 volt. Quando le gambe cominceranno a cedergli, gli si appoggio contro una spalla e uso tutte le sue forze per pilotarlo giù sul letto. L'avvocato Nils Bjorman soffriva, i suoi muscoli erano inservibili. Il corpo era come paralizzato, non era sicuro di aver perso conoscenza, ma era disorientato e non ricordava esattamente che cosa fosse accaduto. Quando riprese lentamente il controllo del proprio corpo, scoprì di essere steso supino nel suo letto, nudo, con i polsi bloccati dalle manette e le gambe dolorosamente divaricate. Aveva segni di bruciature che dolevano nei punti in cui gli elettrodi erano venuti a contatto con la pelle. Lisbeth Salander aveva portato la poltroncina di Mini accanto al letto e aspettava paziente, con gli stivali appoggiati sulle scarpe, fumando una sigaretta. Quando Bjorman cercò di parlare, si rese conto di avere la bocca sigillata con un largo nastro adesivo. Girò la testa. La ragazza aveva tirato fuori i cazzetti, rovesciandone il contenuto. «Ho trovato i tuoi gingili», disse. Sollevo un frustino e indico la collezione di falli, morsi e maschere di gomma sul pavimento. A cosa dovrebbe servire questo aggeggio? Mostro un grosso falo anale. No, non cercare di parlare, in ogni caso non ti sentirei. E questo che hai usato su di me la scorsa settimana? È sufficiente che annusci? Si inchino speranzosa su di lui. Neil Bjorman si sentì invadere di un'onda improvvisa di gelido terrore e perse la testa. Cominciò a stratonare le catene che gli bloccavano le mani. Lei aveva preso il controllo. Impossibile. Non poteva fare nulla quando Lisbeth Salander si piegò in avanti e piazzò il falo tra i suoi natiche. «Dunque sei un sadico», constatò lei. «Ti piace infilare roba nella gente, eh?» Lo fisso. Il suo viso era una maschera senza espressione e senza lubrificante, eh? Bruman strillò attraverso il nastro adesivo quando Lisbeth Salander gli allargò brutalmente le natiche e applicò il falo dove andava applicato. «Piantala di frignare», disse Lisbeth Salander inventando la sua voce. «Se fai storie ti dovrò punire». Si alzò e girò intorno al letto. Lui la seguì con la disperazione dello sguardo. Che cavolo, Lisbeth Salander aveva trasportato lì il suo televisore da 32 pollici dal soggiorno. Sul pavimento aveva sistemato il suo lettore. La ragazza lo guardò ancora con in mano la frusta. «Ho tutta la tua attenzione», domandò. «Non cercare di parlare, è sufficiente che se annuisci. Senti quello che dico?» Lui annuì. «Bene», si chinò e raccolse ad terra il suo zainetto. «Lo riconosci?» Lui annuì. «È lo zaino che aveva quando sono venuta qua la settimana scorsa. Oggetto pratico, l'ho preso in prestito dalla Milton Security. Aprì una cerniera, lampo sul bordo inferiore. Questo è una videocamera digitale. Guardi mai Insider alla TV? È uno zainetto così, che cerchi schifosi reporter usano quando vogliono filmare qualcosa di nascosto». Chiuse di nuovo la cerniera lampo. «E l'obiettivo?» ti domanderai. «È proprio lì la finezza. Grand'angolo con fibre ottiche. L'occhio somiglia a un bottone e sta nascosto nella fibbia della tracolla. Forse ricordi che piazzaio lo zaino che sul tavolino prima che tu cominciasse a palpeggiarmi? feci molta attenzione al mio obiettivo fosse puntato sul letto. Tiro fuori un CD e lo infilo nel lettore. Quindi sistemo la poltroncina in modo di poter vedere lo schermo della televisione. Si accese un'altra sigaretta e premette un pulsante del telecomando. L'avvocato Bjurman vide lo stesso aprire la porta a Lisbeth Salander. Non hai nemmeno imparato a leggere l'ora. Saluto Arcigno. Gli fece vedere tutto il nastro. Il film terminò dopo 90 minuti, nel bel mezzo di una scena in cui un Bjurman nudo era seduto sul letto a bere un bicchiere di vino mentre osservava Lisbeth Salander che giaceva rannicchiata con le mani incanate dietro la schiena. Lei spense la TV e rimase seduta in silenzio per quasi 10 minuti senza guardarlo. Bjurman non osava muoversi nemmeno da un millimetro. Poi egli si alzò e andò in bagno. Quando fece ritorno, si risedette sulla poltroncina di Vimimi. La voce era come carta vetrata. «Ho fatto un errore la settimana scorsa», disse. «Credevo che sarei stata costretta a succhiettarlo di nuovo e che nel tuo caso è maledettamente disgustoso, ma non fino al punto di impedirmi di farlo. Credevo che senza troppa fatica avrei potuto procurarmi una documentazione sufficiente per dimostrare che sei un vecchio sporco, porco schifoso. Avevo sbagliato a giudicarti. Non avevo capito quando tu sei profondamente malato. Ti parlerò chiaro», continuo. «Questo film mostra come tu violenti una minorata mentale 25enne da quale sei stato nominato tutore. E non ti immagini quando mentalmente minorata io possa essere all'occorrenza. Qualche sia persona che vedrà nel questo nastro scoprirà che non solo sei un verme, ma anche un sadico folle. Questa è la seconda e spero anche l'ultima volta che guardo questo film. È molto istruttivo, vero? La mia supposizione è che sei tu e non io a rischiare di essere istituzionalizzato. Sei d'accordo?» Rimase in attesa. Lui non reagiva, ma lei poteva vedere che stava tremando. Afferrò la frusta e gli sferzò in pieno genitale. «Sei d'accordo?» ripete a voce molto alta. Lui annuì. «Bene, allora a questo punto l'abbiamo sistemato». Avvicinò la poltrona di Vimimi e si sedette in modo da poterlo guardare in occhi. Allora, questo è dunque il terzo incontro tra Lisbeth Salander e il suo avvocato, che è anche il suo tutore. E dunque, questo è il pezzo in cui lei si vendica del secondo punto, in cui lui non ha solo chiesto una fellazione, ma l'ha anche portato a letto, l'ha torturata, l'ha stuprata con oggetti, eccetera, eccetera. È un momento abbastanza interessante di questo passaggio e come lei, come lui pensa comunque sempre ritrovare il controllo e si dice a un certo momento non è possibile, appena comunque lei finirà questa cosa là comunque io mi vendico, finché a lei comunque si accorge sempre, sta sempre un passo avanti a lui dicendo: «Ah, che pensi che come sono? Pensi che comunque ti lascerò così?» Infatti con tutta la sua tutto il suo materiale di sorveglianza, ha messo sotto sorveglianza la sua macchina, la sua casa, e gli dice che comunque gli farà esattamente le cose che vorrà lei, se no lei l'ammazzerà. E gli dice: «Sì, se mai dovessi sfiorarmi di nuovo ti ammazzo, credimi su la parola». E per fare la fine del passaggio, lei scese dal letto, piegò la testa di lato e osservò la sua opera con un occhio critico. Il suo talento artistico era piuttosto limitato. Le lettere tremolavano e il tutto aveva un che di impressionista. Aveva utilizzato il rosso e il blu per tatuare il messaggio, che era scritto in maiuscolo su 5 righe che gli coprivano tutto l'addome, dai capezzoli fino a giù, appena sopra i genitali. Io sono un sadico porco, un verme e un strupatore. Lei radunò gli aghi, ripose le cartucce dei colori nello zaino, poi andò al bagno a lavarsi le mani. Quando tornò in camera da letto, scoprì di sentirsi decisamente meglio. Buonanotte, disse. Allora, forse avete già letto le parole di I Will Survive. All'inizio avevo paura, ero pietrificata, continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto ti eri comportato male con me e sono cresciuta forte e ho imparato ad andare avanti. E così sei tornato dallo spazio, sono semplicemente entrata e ti ho trovato qui con quello sguardo triste sul tuo viso. Avrei dovuto cambiare quella stupida serratura, avrei dovuto farti lasciare le chiavi, se avessi saputo anche solo per un secondo che saresti tornato a darmi fastidio. Va, adesso va via, esci dalla porta, vai a farti un giro perché non sei più il benvenuto qua, non eri tu quello che ha cercato di ferirmi con un addio, pensavi che sarei crollata, pensavi che mi sarei buttata giù e sarei morta. Oh no, non, io sopravviverò. Oh, finché saprò come si ama, so che resterò viva. Ho tutta la mia vita da vivere, ho tutto il mio amore da vivere e sopravviverò. Sto cercando un'altra versione di I Will Survive per concludere questa situazione, che comunque di tutto questo noi, la maggior parte delle donne, noi sopravviviamo. Vediamo quella. Change that stupid lock. I should have made you. concludiamo questa Megaphonics di oggi ricordando alle donne che 70-80% delle donne che decidono di rispondere, di picchiare, di gridare, di partire, di andare via correndo, si salvano. Dunque autodifesa importante, e non lo dimenticate, e vi saluto e vi dico alla settimana fra due settimane. Mana, bitegare, bitegare. 有某个事里还要去来当过心，以为会捞几个眼子就在哪里做。 我也有一个 blue bomb， 阿峰桑，大悲剧破损还当。 اسمعوني، جيبوا شباب وما قتل بنات، نطلع على جنب للهوا بلاش، ما بدنا.